Viviamo in un'epoca che non ci permette di comprendere immediatamente ciò che leggiamo nella Bibbia. La causa è dovuta al fatto che 2/3 di essa è rivolta al popolo ebraico, mentre l'altro terzo, anche se è scritto per una mentalità greca, mantiene concetti e ragionamenti legati alla cultura ebraica. Per questo non sempre comprendiamo le parole che leggiamo secondo il loro esatto significato originale, sia perché esse nel tempo se ne discostano, sia perché, per essere capiti, ancora dopo 2000 anni, certi ragionamenti devono essere calati nel loro tempo. L'Apostolo Paolo scrisse di vedere come in uno specchio, intendendo di non vedere esattamente bene le cose. Ma questo paragone oggi non è più valevole perché gli specchi del XXI secolo possono riflettere molto bene la realtà. Questi fatti dovrebbero rendere chiunque legge la Bibbia indirizzato innanzitutto a comprendere il significato delle parole nel senso originario inteso dagli scrittori, per essere in grado poi di comprendere il ragionamento correttamente. Se leggo nel libro degli Atti che in Antiochia c'erano dei dottori, se per dottori intendo coloro che esercitano la professione di medico, interpreto in un modo, mentre se conosco il giusto significato, ossia insegnanti delle scritture, sono in grado di comprendere e insegnare ciò che voleva comunicare Luca. Poiché i termini bene e male si trovano nella Bibbia almeno un migliaio di volte, è opportuno ricercarne il senso originale, giacché una comprensione sbagliata di essi ci porterebbe a assumere un altrettanto errato atteggiamento nella vita. Il termine bene evoca generalmente nella nostra mente tutto ciò che procura un piacere, mentre il termine male si riferisce a ciò che ci procura una insofferenza. I termini biblici non sconvolgono questi principi, ma non possiamo neppure limitarci solo a questi aspetti, perché le conclusioni non sarebbero in armonia con ciò lo scrittore ci vuole comunicare. Prendiamo come esempio: il male perseguite i peccatori, ma il giusto sarà ricompensato col bene. Proverbi 13:21. Dopo aver letto questa meravigliosa promessa di Dio, il minimo che possa fare il credente è avere una grandissima riconoscenza nei confronti di Cristo, perché oltre ad averlo reso giusto, gli ha promesso un futuro esente dai dolori che invece affliggono gli ingiusti e pieno di gioie. Una conclusione questa non certamente nuova, perché anche il credente dell'antico patto lo aveva inteso così, per quanto in seguito ne fosse però rimasto deluso, perché le cose in pratica non andavano proprio come aveva compreso. Stessa cosa per il credente di oggi. Il male, o ciò che è negativo, non accompagna veramente l'ingiusto, mentre il bene, cioè ciò che è favorevole, ricompensa raramente il giusto, colui cioè che cammina secondo il volere di Cristo. Prima di dare una risposta a questo interrogativo, se è vero come è stato detto che le nostre parole di lode le esprimiamo in un mondo infernale, diabolico, se è vero che i nostri canti di vittoria le eleviamo in un mondo dove tutto è in disordine, se è vero che viviamo la nostra gioia tra persone che non ci capiscono né ci incoraggiano, è altresì vero che le nostre risposte non sono come quelle alle quali approda l'uomo. I nostri ragionamenti non sono come i loro, perché il credente possiede la mente di Cristo. E, bene, specificare che possedere la mente di Cristo non significa vivere fuori dalla realtà, o vedere il bianco quando tutto è nero, né dire bene di ciò che è male, ma si tratta di avere acquisito un altro modo di vedere la realtà, soprattutto nella sua totale durezza. I cristiani non sono persone deluse della vita, diventate ciniche, perché se il cinismo viene lasciato agire dietro le quinte del cuore, diventa un parassita della fede, sfibra la speranza e rende anemici nell'amore. I cristiani sono coloro che guardano in faccia la realtà, ma nonostante tutto acquistano nuove forze, vedendo la vita come la vede Dio. Sì, si sono resi conto di non essere in grado di comprendere rettamente i fatti della vita, ma hanno trovato nella sapienza di Cristo la risposta ai loro interrogativi. Si sono resi conto di vedere la realtà a testa in giù come i pipistrelli appesi, perciò hanno chiesto a Dio di metterli nella posizione giusta. I cristiani hanno preso coscienza di far parte di un'umanità decaduta e di trovarsi a vivere in uno stato che è contrario a quello per il quale sono stato creati. Il giorno era divenuto notte, e immersi in queste tenebre oscure scambiavano i loro nemici per amici. e i loro amici per nemici. Chiamavano il bene male ed il male bene. Hanno compreso che i loro sentimenti sono stati pervertiti, tanto da amare ciò che Dio odia e odiare ciò che Dio ama. Si credevano liberi e invece erano schiavi, si credevano buoni e invece erano malvagi. Presero coscienza di ricercare affannosamente il bene nel piacere, anziché cercare piacere nel bene. Guardavano a Dio come fosse un fastidioso nemico, piuttosto di accettarlo quale il loro migliore amico. In definitiva, il ravvedimento di chi ha posto la fede salvifica in Cristo è consistito nel comprendere che la colpa più grande non era rappresentata tanto dai peccati commessi, ma nel ribellarsi a Dio. In effetti, peccare significa profanare la sua santità, violare la sua giustizia, disprezzare la sua volontà, opporsi alla sua sovranità, contrastare il suo piano, negare la sua sufficienza, sfidare la sua pazienza, beffarsi della sua onniscienza e onnipotenza, disprezzare la sua bontà, abusare del suo amore, sputare in faccia alla sua grazia. Solo a questo punto, mediante lo Spirito Santo, con un atto di fede, il credente riceve la mente di Cristo, mediante la quale è reso in grado di comprendere, sempre per l'azione della persona dello Spirito, quale sia il vero bene e il vero male. Una nuova luce brillerà nella sua mente, una nuova forza muoverà la sua volontà, nuovi oggetti attireranno i suoi propositi. Solo dopo questa sconvolgente rivoluzione mentale si è in grado di comprendere appieno cosa siano il bene e il male. Innanzitutto, il bene non è sempre identificabile in ciò che procura un immediato benessere, perché la soddisfazione di una grande mangiata può terminare con una indigestione, come l'agognata relazione sessuale illecita crea problemi infiniti, e l'amore per il denaro procura molti dolori. Mentre il male non sempre è riferibile a tutto ciò che riteniamo negativo, perché il mancato e agognato viaggio in aereo, come premio per una vincita, può straziare il cuore. Ma se in seguito l'aereo sul quale saremmo voluti salire incappa in un terribile incidente, dove tutti i passeggeri muoiono, ciò che sembrava negativo e doloroso si trasforma in bene, inaspettato e insospettato. È difficile per noi così limitati comprendere veramente cosa sia il bene e il male in questa dimensione umana. Tutto è passeggero e transitorio, tutto è limitato, e poiché non siamo onniscienti dobbiamo per forza ammettere la nostra totale ignoranza riguardo alle valutazioni morali del bene e del male che ci sono nella vita. Inoltre, per un credente vi è un altro pericolo che mina la base della sua fede, un pericolo che ho sempre denunciato e che un cristiano ha formulato in modo meraviglioso: Dio è indifferente, in modo quasi intollerante, a croci e spade, ad arene e patiboli, a tutti i mali e a tutte le afflizioni. Il prendersi cura di noi non vuol dire che egli abbia intenzione di mettere delle pezze ai disastri del mondo. Questo è il nostro meraro modo umano di ragionare, ma se ci abbandoniamo alla rivelazione divina, così sconvolgente e rivoluzionaria per la nostra mente, ecco che tutto, mediante questo rinnovamento del nostro pensiero, acquista un significato logico e comprensibile. Il vero bene e il vero male non è terreno, non è passeggero, ma è eterno. Il vero bene e il vero male rimangono tali per sempre, altrimenti non si tratta di vero bene né di vero male. Come una verità è tale se anche dopo 2000 anni è riconosciuta come tale, altrimenti non è verità. Molti anni fa si riteneva verità che la Terra fosse piatta, in seguito si scoprì che in verità la Terra è rotonda. Tale verità rimarrà per sempre. Perciò, ciò che è bene e male su questa Terra non è che il riflesso del vero bene e del vero male, ma poiché si esprime in un contesto terreno, passeggero, imperfetto, deve per forza contenere elementi di imperfezione e di transitorietà. Noi chiamiamo bene ciò che ci procura benessere e felicità. Ma poiché il benessere e felicità sono transitori e imperfetti, possiamo, avendo una mente limitata, commettere errori di valutazione. Per non commettere errori di valutazione, prendiamo ad esempio la vita di Gesù Cristo. Il Salmo 91 fa riferimento a Gesù, tanto è vero che il diavolo stesso, nella tentazione del deserto citandolo, affermò: «Se sei il figlio di Dio, gettati giù perché sta scritto. Egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra». Salmo 91:11-12. Poco prima il salmista, di Gesù, aveva detto: «Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda». Salmo 91:9-10. Dunque, la promessa fatta a Gesù è che non avrebbe ricevuto nessun male, ma se esaminiamo la sua vita descritta nei Vangeli, notiamo che se una persona ha ricevuto il vituperio e una dura opposizione per morire alla fine su di una croce, quello è stato proprio il Figlio di Dio, al quale erano state fatte queste promesse.